Linee d'ombra di Matteo Caccia. In flagrante loro sono stati trovati nel sottoscala da mio marito, che non è più tornato. Con il tonno a un certo punto sale e mi chiede: Chiara, tira fuori la planimetria perché qua abbiamo un problema con la cantina. Luca vede due uomini armeggiare con un trapano sulla porta della cantina in un angolo. Si ferma e chiede cosa stiano facendo. Loro si bloccano e dicono: ah, è la tua cantina? Storie di una cantina e del furto d'arte più strano della storia, in una puntata che si intitola Strani furti. Il mio nome è Dalton Russell. Fate attenzione a quello che dico, perché scelgo le mie parole con cura e non mi ripeto mai. Vi ho detto il mio nome e questo è il chi. Il dove lo potremmo anche descrivere come la cella di una prigione. Ma c'è una bella differenza fra trovarsi chiusi dentro una cella e trovarsi in prigione. Il cosa è facile. Ho realizzato un piano in questi giorni allo scopo di eseguire la rapina perfetta ad una banca, che è anche il quando. Riguardo al perché, a parte le ovvie motivazioni economiche, è estremamente semplice. Perché lo so fare. Ci resta solo il come da svelare. Ed è qui il grande bardo direbbe che c'è l'intoppo. La voce di Clive Owen, o come sempre succede quando siamo in Italia, la voce del doppiatore di Clive Owen nell'apertura di un film bellissimo di Spike Lee di una decina d'anni fa che si intitolava Inside Man. C'è proprio una serie, un genere legato ai film di rapina, che è un genere al quale sono particolarmente appassionato. Tutti gli Ocean Eleven, da lì in avanti, sono tutti film che parlano della rapina, la rapina del secolo, la miglior rapina di sempre, la rapina perfetta. Tutti i film inseguono quel concetto, tutti i film che parlano di rapine ovviamente inseguono quel concetto, l'idea di un uomo che, o di nuovo di un gruppo di uomini che entra in una banca o in un luogo in cui ci sono oggetti di grandissimo valore, ruba tutto, sparisce e di lui non si sa più niente, e non si sa più niente nemmeno di solito di quel denaro oppure di quegli oggetti preziosissimi. Perché? Perché cominciamo così? Perché la puntata di oggi si intitola Strani furti, e quindi quando vogliamo introdurre delle storie lo facciamo con qualcosa di suggestivo, esattamente come l'inizio di questa storia, Inside Man e Clive Owen. Strani furti, furti furtarelli che ci si trova magari sotto casa, oppure mega furti che riguardano invece super opere d'arte. La prima storia, in realtà, la storia che parla sì di un furto molto molto strano che ci racconta Chiara, è una storia che ha a che fare con quell'enorme capitolo della vita di tutte le persone che non vivono in una casa solitaria, cioè non vivono in una casa che è esclusivamente di proprietà loro, ma tutti quelli che vivono in un condominio, quindi sono tantissimi, soprattutto nelle città. Esistono due categorie di persone che vivono in un condominio: quelli che partecipano alle riunioni di condominio e quelli che invece a quelle riunioni non ci partecipano. Io appartengo a questa seconda categoria per diversi motivi, per tedia, per noia, per... Anche devo dire per mancanza di interesse, ma soprattutto perché sono disposto magari a perdere qualche soldo in più, ma a mantenere una sanità mentale e soprattutto non buttare via il mio tempo. Ci sono invece quelli che le frequentano, e poi ovviamente sono nati i grandi giri di mail, le mailing list del condominio, se non... se qualcuno magari le fa, io insomma mi auguro per la sanità mentale di no, alle chat di WhatsApp del condominio. Io ho una mailing list meravigliosa che arriva dal mio condominio, dove succede di tutto, anche se io per lo più non me ne accorgo, dove c'è una donna, una signora in particolare, c'è sempre qualcuno in particolare che parte nei condomini con le ingiurie, oppure con le campagne, diciamo così, con le grandi operazioni. Lei proprio, insomma, è quella che è la più operativa di tutti. Ogni volta che mando una mail, dopo pochi minuti, se nessuno risponde, lei dice: fate come al solito, ve ne fregate di tutto e di tutti, e io sono l'unica qui a pagare il costo, bla bla bla bla. Alcune sono molto intrattenenti, altre sono molto meno. Insomma, lo dico perché se vi abitate in un condominio, probabilmente capirete meglio la storia che schermo per raccontarvi, la capirete un pochettino di più. Ha a che fare con dei vicini di casa, tra cui tra l'altro c'è un ottimo rapporto, ma una sera, scendendo in cantina, la protagonista Chiara e suo marito si accorgono che sta succedendo qualcosa di strano. Benvenuti a Linee d'Ombra. Da un paio d'anni io e mio marito viviamo in un piccolo appartamento al piano terra in una frazione fuori città, nella provincia di Treviso. È la nostra prima casa, molto molto piccola, ma carina. Si trova in una specie di residence a due piani, fatto di appartamenti come il nostro o appena più grandi. Siamo quasi tutti coppie o famiglie con i bambini piccoli. La zona è tranquilla e il cortile centrale su cui si affacciano gli spazi fronte casa degli appartamenti al piano terra fa sì che ci conosciamo quasi tutti e la vita esterna è condivisa, ci si saluta, ci si ferma a chiacchierare e almeno un paio di volte d'estate si fa una cena tutti insieme. Noi ci troviamo bene, abbiamo fatto amicizia con i vicini più prossimi e ci siamo perfino appassionati al giardinaggio, curando il nostro piccolo giardino selvaggio a cui si accede solamente passando per la camera da letto. Siamo lì in affitto e oltre all'appartamento abbiamo anche un garage singolo e una cantina. La cantina, in particolare, si è da subito rivelata preziosa. Ci permette di avere una dispensa, un posto dove mettere le valigie, le cose da montagna e soprattutto il freezer. Lavoriamo entrambi in aziende senza mensa e i primi mesi senza congelatore, quando ogni pranzo per il giorno dopo andava preparato uno, massimo due giorni prima, sono stati complessi. All'epoca dei fatti, in cantina, in qualche modo, eravamo riusciti a farci stare anche le nostre due mountain bike. Noi abbiamo questa cantina, è molto piccola, saranno penso 2 metri per 1, piccolina giù dalle scale, ed è un po' lo sfogo perché la casa è molto piccola. Abbiamo messo lì gli zaini da montagna, le valigie, insomma l'abbiamo riempita all'inverosimile. È una sera di gennaio e aspettiamo un amico a cena. Mio marito Luca, che cucina sempre volentieri, comincia a mettere su un secondo e io preparo qualche crostino come antipasto. Sono 7:00 e puntuale arriva Francesco, mentre Luca scende in cantina a prendere le patate per il contorno e il tonno che serve a me per finire gli antipasti. Scendendo le due rampe di scale che ci separano dal seminterrato, Luca nota subito il fracasso che proviene dal vano delle cantine. Lo sentivamo anche da su e avevamo pensato che qualcuno stesse facendo lavori nel garage, dal momento che qualche inquilino ha trasformato il proprio in laboratorio. E invece no. Appena svoltato l'angolo, Luca vede due uomini armeggiare con un trapano sulla porta della cantina in un angolo. La nostra. Lui si ferma e chiede che cosa stiano facendo. Loro si bloccano, trapano in mano. «È la tua cantina?» domanda uno dei due. Luca gli dice «Sì, cosa state facendo?» In un attimo Massimo, che è uno dei due, quello che ha fatto la domanda e poi si è scoperto essere il proprietario del trapano, si defila dicendo che la batteria del trapano è scarica e deve tornare a casa. Passando accanto a Luca gli sussurra che lui non ne sapeva nulla, l'altro gli aveva chiesto il trapano e una mano per la propria cantina, che ne sapeva lui che la cantina invece era nostra. Restano Luca e l'altro tizio. Non è un vicino, è il proprietario dell'appartamento in diagonale rispetto al nostro, fino a qualche mese prima abitato dall'anziana madre dello stesso, malata di Alzheimer e deceduta da poco. Qualche volta l'abbiamo intravisto, un uomo di mezza età, sempre trasandato, dall'aria volgare. Non saluta mai. l'aria facilona che lo contraddistingue, afferma che la cantina non è nostra, è sua, in base ai ricordi suoi e dell'ex amministratore che lui una volta conosceva. Ora, non è che lui avesse delle carte, men che meno una planimetria, ma poco male. A lui e all'ex amministratore appunto pareva di ricordare che ci fosse una cantina e che fosse quella lì, in angolo. Lui aveva giusto appunto appena venduto l'appartamento della madre, comprensivo di questa cantina. Il nuovo proprietario ne aveva chiesto le chiavi e davanti all'assenza delle stesse aveva dedotto che l'anziana madre, malata, doveva averle date a qualcuno per sbaglio. Aveva identificato il vano che secondo lui doveva essere il suo e con matematica semplicità aveva considerato che siccome Massimo aveva degli attrezzi, era la persona giusta a cui chiedere aiuto per aprire quella cantina che ovviamente era chiusa. In tutto questo non gli era venuto in mente di contattare l'attuale amministratore o di suonare un qualsiasi campanello nei dintorni per chiedere se qualcuno sapeva di chi era quella cantina, come non aveva minimamente pensato di verificare di avere una cantina prima di venderla. Nel frattempo, discutendo, mio marito e l'altro sono saliti abbandonando la porta mezzo scassinata della nostra cantina, contornata da un laghetto argentato di schegge di metallo, e ci ritroviamo quindi nel nostro fronte casa, io, Luca e Francesco, il nostro ospite da una parte e lo scassinatore dall'altra. Io recupero le planimetrie del nostro appartamento e avviso immediatamente il nostro di proprietario di casa. E nonostante quell'altro tizio sia ancora lì, che sta dando in escandescenze, farneticando di misteriose planimetrie più aggiornate di quelle che ho, che però non ha con sé, la cantina sembra proprio, insomma, essere la nostra. E lui faceva come per entrare in casa e io non volevo perché insomma la casa è piccola, è casa nostra e questo fa per entrare e continua a interrompermi parlando. Secondo me lui ci ha visti anche molto giovani e quindi ci diceva no ma non mi interessa niente di queste carte, sono vecchie, io ho delle carte più recenti. E io ero allibita e dicevo ma allora, poi lui non guardava me. Perché secondo me, sai, una ragazza così, quindi guardava solo mio marito, se anche rispondevo io lui proprio non mi badava. E il nostro ospite che guardava un po' gli veniva da ridere, però non voleva ridere perché la situazione era abbastanza complessa. E niente, era proprio staccato dalla realtà, lui aveva la sua linea di pensiero e ogni scusa era buona per arrivare a quello che voleva lui, nonostante le evidenze. L'uomo però è molto scocciato dalla situazione e da noi tre, che ai suoi occhi dovevamo essere sembrati tre ragazzini da intortare con facilità e che invece ci stiamo opponendo con puntiglio alla sua faciloneria e soprattutto, a questo punto, vogliamo la nostra cantina a posto. Tra una imprecazione e l'altra dice che tutto sommato la porta della cantina non è del tutto aperta e che sistemerà nei prossimi giorni. Mio marito, con la calma glaciale di cui è capace quando è arrabbiato, gli ripete che no, a noi la cantina serve subito. L'uomo, sempre imprecando, si avvia verso il negozio di ferramenta più vicino e chiede a Massimo se può di nuovo prestargli gli attrezzi. Noi rientriamo in casa e riusciamo a imbastire la cena, a quel punto privata del suo contorno e di metà dell'antipasto. Dopo qualche ora il tizio suona il campanello, ci dà le nuove chiavi e aggiunge scocciato che comunque dimostrerà che siamo abusivi. Gli diamo il numero del nostro proprietario, lui si infila il biglietto in tasca e aggiunge che in fin dei conti non ha ragione di andare tanto a preoccuparsi, la casa l'ha venduta e ora sta al nuovo proprietario dimostrare di essere in possesso di una cantina. Inutile dire che la faccenda è morta qui, nessuna planimetria aggiornata è mai stata tirata fuori e nessuno mai ha contattato il nostro proprietario per la questione. Dopo qualche giorno, Massimo ci ha portato una bottiglia per scusarsi di essere stato il braccio inconsapevole di un'effrazione e la storia è diventata tra gli argomenti ricorrenti nelle cene tra vicini. Thank you. Le dinamiche tra inquilini e tra coinquilini e tra condomini sono, diciamo, abbastanza note a tutti quelli che le vivono, perché vivono appunto in un condominio, in un palazzo, e non hanno la fortuna di vivere invece in una casa singola dove vivono solo loro. E per questo motivo la storia di Chiara è una storia che conosciamo, anche se non a tutti è capitato di trovarsi un tizio con un trapano che cercava di sfondare la porta della tua cantina. Pronto, ciao Chiara, buongiorno. Ciao, buongiorno. Senti, quanto tempo fa succedeva questa storia, Chiara? Allora, è stato l'inverno dello scorso anno, quindi un anno e mezzo fa più o meno. Voi abitate ancora in quella casa lì? Sì, sì, sì, per il momento sì, poi si vedrà, non è la casa della vita. Abbiamo avuto notizie, sei più rifatto vivo il tizio che voleva riprendersi una sua cantina che non aveva, perché poi non ce l'aveva una cantina, no, giusto? Lui ovviamente non l'abbiamo più visto perché la casa l'ha venduta. Il nuovo proprietario immagino se la sia messa via, che la cantina non c'era perché non risultava nemmeno dalle planimetrie. C'è un passaggio molto, molto chiaro sul che parla di tuo marito, che è la calma glaciale di mio marito quando si arrabbia. È una cosa che gli capita sempre, e cioè lui invece che scaldarsi diventa di ghiaccio. Esatto, esatto. Tra l'altro in questo ci assomigliamo, quindi... Quindi quando litigate in casa vostra la temperatura si abbassa tipo di 20 gradi. Esatto, però non litighiamo quasi mai, quindi non succede quasi mai. Senti, invece il vostro vicino Massimo, lo vedete ancora? Lui era veramente inconsapevole di tutto. Sì, ne abbiamo parlato anche recentemente durante la quarantena, perché sono tornati fuori un po' questi aneddoti del residence, e lui diceva: cavoli, quando mi sono visto la faccia di tuo marito ho pensato: oddio, adesso questi mi denunciano per effrazione. E lui non sapeva proprio niente, nel senso che in buona fede gli hanno detto: ma tu che hai un trapano, non puoi mica venire a darmi una mano. E lui è andato. D'altronde, come si fa a pensare che stai cercando di scassinare una cantina che non è... Tra l'altro è un ottimo, esatto, è un ottimo modo, diciamo, come dire, metti che uno voglia fare un'effrazione, basta coinvolgere un vicino. Senti, esatto. Già che ci sei, c'hai un martello, un trapano, ti spiace, esatto. Devo prendere una cosa da casa mia, faccio al volo. Mi sembra un'ipotesi. Senti, Chiara, cosa fai nella vita? Allora, io lavoro in ambito farmaceutico, lavoro nella assicurazione qualità. Ok, ok. E in zona Veneto, mi sembra di capire. Sì, sì, sì, sì. Senti, come l'avete vissuto il lockdown nel residence? Mi piace, lo chiami residence, io associo la parola residence alla vacanza, perché quando eravamo piccoli con i miei andavamo in vacanza in un residence, quindi mi dà l'idea un po' così, un po' di come dire, vita spensierata in un residence. Com'è andato il lockdown nel residence? Allora, in realtà molto bene, perché anche noi non conoscevamo le realtà del residence, noi abbiamo sempre vissuto in case singole. E, è una situazione in cui hai due piani, piccoli appartamenti, quindi molto piccolini. Noi abbiamo il giardino perché siamo al piano terra, i piani di sopra hanno le terrazze, e poi c'è uno spazio comune chiuso dal cancello dove si parcheggiano le macchine, c'è un po' di giardino comune. È un po' come essere in vacanza, nel senso che tutti si siedono magari sulla terrazza, o noi abbiamo un po' di spazio davanti a casa, c'è un po' il salottino, e i bambini giocano insieme. È un bel contesto, devo dire, molto tranquillo, che richiama un po' un senso di comunità. E guarda, sono curioso anche di sapere il nome, perché il nome sicuramente è anche fantasioso e leggero, no? No, è il nome del paese, in realtà. Ah, ok. Io mi aspettavo tipo Residence il cielo azzurro, Residence i prati verdi, una roba del genere, invece no. In realtà qui è un genere di costruzione che va moltissimo. E alcuni hanno dei nomi fantasiosi. Qui in provincia di? Di Treviso. Treviso, ok, buono a sapersi, nel caso qualcuno volesse comprare una casa in provincia di Treviso, il residence è la formula migliore, che non ho capito cosa differisca dal condominio normale, cioè dalla struttura, o c'è una forma di coabitazione, di contratto proprio diverso? Ma perché io penso che sia perché ogni unità è indipendente. E comunque non sono tanti piani, okay. non ci sono, non lo so, forse un po' per quello, un po' il senso di piccola costruzione a due piani. Va bene, dopo questo angolo di linee d'ombra immobiliare, Chiara, ti ringrazio moltissimo per la storia e la chiacchierata. So che poco fa ti ho chiamato, eri in una riunione, quindi ti lascio tranquilla. Se devi tornare, spero tu non debba tornare a una riunione. No. Non sono, diciamo, la parte più amata del lavoro. No. Ti faccio in bocca al lupo per tutto, Chiara. Grazie. A presto, grazie mille. Grazie, ciao. Ciao, buona giornata. Stamane mi sono svegliato, colpito da voci e clamori. Di fuori una gran confusione si vedeva dal balcone. Le strade erano tutte affollate, gli strilloni sentivo a gridare. Un'edizione speciale ha rubato stanotte alle tre il Duomo di Milano. Quanta gente fra sé si domanda com'è, porca loca, ma il Duomo dov'è? La puntata si intitola Strani furti, avete capito perché, grazie alla storia di Chiara, ma tra pochissimo ce ne sarà un'altra di storia simile e, come al solito, diversa. Ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Linee d'Ombra. Il giorno di San Patrizio, celebrato con festeggiamenti scatenati dagli americani di origine irlandese e non solo, nel 1990 cadde provvidenzialmente di sabato. Intorno alla mezzanotte del 17 di marzo, dopo la festa, un gruppetto di ragazzi stava camminando vicino al museo Isabella Stewart Gardner a Boston e non poté non notare un'auto, una Dodge Daytona, parcheggiata a circa 30 metri dall'entrata dell'edificio. Una ragazza della compagnia, portata in spalla dal fidanzato, scorse due poliziotti in uniforme all'interno dell'abitacolo. «Sbirri», disse agli altri. «Strano che dei poliziotti in uniforme usino un'auto privata e non un'auto di servizio», pensò uno dei ragazzi. Stava per bussare al finestrino quando pensò che sarebbe stato meglio evitare. Aveva bevuto troppo e soprattutto era ancora minorenne. Così il gruppetto continuò per la sua strada. Ecco, in questa puntata di oggi di Linee d'Ombra, che si intitola Strani furti, la seconda storia racconta di un grande furto di opere d'arte avvenute proprio a Boston nel 1990. Seguiteci lungo le Linee d'Ombra. All'1:20 la Daytona si avvicinò all'entrata di servizio del museo. I poliziotti scesero e andarono verso l'ingresso. Uno di loro premette il pulsante che metteva in comunicazione con il guardiano notturno del museo e gli comunicò che la polizia aveva ricevuto una chiamata. Stava succedendo qualcosa nel cortile. Il guardiano notturno, Richard Rick Abbott, aprì la porta ai poliziotti, violando il regolamento interno. Durante le ore notturne, infatti, l'ingresso non è vietato solo ai visitatori, ma anche agli agenti, a meno che non abbiano appositi incarichi di sorveglianza. Uno dei due poliziotti, sulla quarantina, alto circa 1,75 m, di corporatura normale, occhiali con la montatura color oro e baffi, probabilmente finti, chiese ad Abbott se nel museo ci fossero altre persone e, appreso che un secondo guardiano stava facendo un giro di ispezione, gli ordinò di chiamarlo e di farlo tornare al posto di guardia. Dopodiché il poliziotto disse a Rick Abbott: «La tua faccia la conosco. Abbiamo qualcosa anche per te, un bel mandato d'arresto. Vieni qui e mostraci i documenti d'identità». A quel punto Abbott uscì dal suo gabbiotto, dove si trovava il tasto per lanciare l'allarme. In questo modo infranse di nuovo il regolamento, mostrò al poliziotto la patente e la tessera da studente. Ormai temeva di essere arrestato. La paura di Abbott era in qualche modo giustificata. Spesso andava al lavoro ubriaco o dopo aver fumato marijuana, convinto che l'avrebbe sempre fatta franca, come quella volta che era stato di turno la notte del 31 di dicembre. Aveva fatto venire fratelli e amici e organizzato una festa con i fiocchi, proprio in mezzo ai quadri. I poliziotti ordinarono ad Abbott di mettersi con la faccia contro il muro e poi lo ammanettarono. Quando arrivò il secondo guardiano, ammanettarono anche lui. «Perché mi arrestate?» chiese risentito. Gli agenti risposero: «Non ti abbiamo arrestato, questa è una rapina. Non createci problemi e non vi faremo niente». Ai banditi bastarono 40 minuti per portare a termine il colpo. Agirono in modo veloce e rozzo. tagliarono le tele e le staccarono dalle cornici. Portarono via 13 opere tra oggetti e dipinti, tra cui il Concerto a tre di Ian Vermeer, il quadro più prezioso del valore di 250 milioni di dollari, e poi Cristo nella tempesta sul mare di Galilea, stimato tra i 50 e i 100 milioni di dollari, e poi Dama e gentiluomo in nero e un autoritratto tutti di Rembrandt, e poi un'opera fiamminga, un ritratto di Manet e 5 opere di Edgar Degas. Rubarono anche un vaso cerimoniale cinese del XII secolo e il pinnacolo dell'asta di una bandiera napoleonica. L'elenco suscitò un certo stupore tra gli esperti. Alcune delle opere sottratte avevano infatti un valore di mercato molto più basso di altre lasciate invece lì, al loro posto. Alle 2:28 i finti poliziotti tornarono al gabbiotto. Presero dal videoregistratore il nastro delle telecamere a circuito chiuso, su cui erano stati filmati il loro ingresso e i loro movimenti nell'edificio, poi stamparono i dati raccolti dai sensori di movimento collocati nelle sale del museo, dimenticando però che quegli stessi dati sarebbero rimasti sul disco rigido del computer. Alle 2:41 lasciarono l'edificio. Solo alle 8:15 del mattino, al cambio del turno, i due guardiani furono liberati dai colleghi, che chiamarono immediatamente la polizia. Fin dall'inizio gli investigatori dovettero fare i conti con la mancanza di indizi. Raccolsero le impronte digitali e delle scarpe, i capelli e i campioni di DNA, ma non riuscirono a determinare quali tracce fossero state lasciate dai rapinatori e quali dal personale di servizio o dai visitatori. Secondo una delle prime ipotesi, i criminali si erano serviti di un contatto interno al museo. I sospetti caddero ovviamente su Rick Abbott. Si scoprì che aveva violato il regolamento non solo permettendo ai finti poliziotti di entrare, ma un po' prima del furto, quando i rapinatori erano ancora nell'auto parcheggiata, durante il giro di ispezione, Abbott aveva aperto e poi richiuso una delle porte d'ingresso del museo, non si sa bene per quale motivo. Ma la macchina della verità ha sempre scagionato Abbott, e in 30 anni non sono mai state sollevate accuse formali a suo carico. Nel corso delle indagini sul caso, durate anni, e in tutti i resoconti della vicenda, si è sempre insistito su un punto: l'ottima organizzazione del colpo. Dietro a una simile professionalità doveva esserci per forza la criminalità organizzata di Boston. Nel 2018, Charles Hill, detective in pensione del Dipartimento Investigativo sui Crimini d'Arte di Scotland Yard, ha attribuito la paternità del colpo a un grosso criminale di nome James Joseph Bulger. Bulger nel 94 era il secondo latitante più ricercato dall'FBI. Il primo era Osama Bin Laden. Nel 2011, a 81 anni, Bulger fu arrestato insieme alla compagna, Catherine Gregg, in un modesto appartamento in affitto a Boston. Fu condannato a 2 ergastoli e morì il 29 ottobre del 2018 in una prigione della Florida. Ma Bulger ha sempre negato il proprio coinvolgimento in quel colpo. Nel 1991, durante un incontro con un agente che gli aveva proposto di trovare e restituire al museo le opere rubate in cambio della ricompensa di $1 milione, Bulger disse di non sapere chi aveva fatto il colpo. E aggiunse che aveva ordinato ai suoi ragazzi di trovare quei ladri. Boston era territorio suo e nessuno poteva organizzare furti senza pagargli il dovuto. Chi violava la regola, in quegli anni, di solito, pagava con la vita. Nell'aprile del 94, 4 anni dopo il furto, la direttrice del museo ricevette una lettera anonima spedita da New York. Il mittente dimostrava di avere informazioni riservate e faceva una proposta. Avrebbe fatto restituire le opere d'arte in cambio dell'immunità dei partecipanti al furto e di $2.6 milioni. In caso di risposta positiva, il museo doveva dare un segnale segreto. Sul listino dei cambi valutari del quotidiano Boston Globe, nel campo delle lire italiane, sarebbe dovuta comparire una cifra, la cifra 1, prima del simbolo del dollaro. La direttrice del museo consegnò la lettera all'FBI e il dipartimento incaricato prese accordi con il giornale per la pubblicazione del segnale segreto. Una settimana dopo, la direttrice ricevette una nuova lettera. L'autore si rallegrava del fatto che avessero accettato la proposta, ma esprimeva anche la sua preoccupazione per il coinvolgimento della polizia. Poi chiedeva se per il museo e le autorità fosse più importante recuperare i quadri o arrestare un criminale di piccolo calibro. E concludeva spiegando che aveva bisogno di più tempo per pensare a uno scambio sicuro. La seconda lettera fu anche l'ultima. Nel 2005 la direttrice del museo si rivolse pubblicamente all'autore anonimo chiedendogli di continuare il dialogo. Non ci fu nessuna risposta. Il piccolo criminale William Youngworth, specializzato in falsificazione di documenti e assegni e in truffe antiquarie, nel 97 annunciò che avrebbe potuto aiutare gli investigatori a rintracciare i quadri trafugati. In cambio chiedeva il pagamento della ricompensa messa a disposizione dal museo, l'immunità processuale e la scarcerazione di un suo amico, un ladro. Youngworth incontrò un giornalista del Boston Herald, dimostrò Cristo nella tempesta sul mare di Galilea di Rembrandt e grattò via un campione di colore dalla tela per la perizia, la quale dimostrò che il colore era effettivamente dell'epoca di Rembrandt, ma non del quadro in questione. Nel 2013 l'FBI dichiarò di essere a conoscenza dei nomi dei responsabili, senza però farli, e disse che ulteriori indagini si sarebbero concentrate nella parte sud di Filadelfia, i cui residenti sono in prevalenza di origine italiana. Nello stesso anno, un uomo di fiducia di Balger, che stava indagando sul furto per conto del suo capo, comunicò all'FBI che, per quanto ne sapeva, le opere rubate erano state portate in Arabia Saudita il giorno dopo il furto. Nel 2014, un agente speciale dell'FBI, che guidava un'inchiesta dal 2003, dichiarò che, secondo informazioni avute da fonti sicure, i quadri erano stati visti a Filadelfia nel 2000. I ladri avevano cercato di venderli, e l'agente fece addirittura il nome del gangster di Boston, Carmelo Merlino, e i suoi subordinati. Diversi indizi portavano a Merlino, probabilmente il furto era stato organizzato in un'autorimessa di sua proprietà, e stando ad alcuni informatori dell'FBI, in più di un'occasione Merlino aveva accennato di poter avere accesso ai quadri. Nel marzo del 2015, in occasione del 25esimo anniversario del furto, l'FBI ha annunciato di aver risolto il caso. I principali responsabili sarebbero stati due uomini della banda di Merlino. Che siano stati davvero loro a organizzare il corpo ormai conta poco. Uno è morto nel 91, l'altro è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dello stesso anno, forse per aver cercato di fare fuori Merlino e di prendere il suo posto. Uno dei due aveva una Dodge Daytona uguale a quella in cui erano appostati due ladri travestiti da poliziotti. Un detective privato olandese, specializzato in furti d'arte, nella sua carriera è riuscito a ritrovare più di 200 opere trafugate e in un'intervista con la CBS ha affermato di essere certo che tutte le opere sottratte all'Isabella Stewart Gardner erano in Irlanda, aggiungendo che si sarebbe potuto accordare per la loro restituzione. I rappresentanti del museo hanno accolto con scetticismo le affermazioni, da allora sono passati quasi 3 anni e non ci sono stati sviluppi concreti. L'agente speciale dell'FBI, Tim Carpenter, a capo del dipartimento impegnato nella lotta ai furti d'arte, in un'intervista rilasciata al sito Law and Crime un anno fa, ha affermato che probabilmente non tutte le opere rubate si trovano negli Stati Uniti. Oggi, al posto dei quadri rubati all'Isabella Stewart Gardner, ci sono cornici vuote e copie virtuali delle opere. I drink sweet wine for breakfast, slept about an hour or so, smiled a little in the silence, deciding on where to go. Meet me on the way in the Natural History Museum. I think that's what she said, a little bit sad about her having to leave them. Yawning in the sun, like a child I run. La storia di questo incredibile e complicatissimo furto l'abbiamo letta su Internazionale in un articolo che arrivava dalla Russia firmato da Alexei Alexeev Ogonek. Si intitola Il furto d'arte più strano della storia. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'ombra. Linee d'ombra. Uno degli aspetti più complessi da comprendere per quanto riguarda me personalmente, della storia seriale che vi stiamo raccontando, che Mauro Pescio raccoglie e che Antonina Zotti, insieme ad Antonina Zotti, ci sta raccontando, è l'aspetto dell'infamia per essere orfana. Probabilmente, sicuramente è una cosa che non capisco, perché fortunatamente non lo sono stato e non lo sono tuttora, ho entrambi i genitori, ma c'è proprio la descrizione di Antonia che ha a che fare, e in questo episodio viene fuori in maniera molto nitida, la descrizione, vi dicevo, che ha a che fare con l'essere orfana di padre, di un padre ucciso dalla mafia nel 1946, e del crescere con questa onta, con una vera e propria infamia per il fatto che il padre non è stato abbastanza accorto da non dire certe cose, dall'evitare di comportarsi in una certa maniera, e quindi di avere lasciato lei, il fratello e la madre orfane per colpa sua. Ecco, c'è questo aspetto che per una persona nata negli anni 70 nel nord Italia è difficile da comprendere, o meglio lo sarebbe se la storia di Antonina non fosse così precisa e minuziosa in ogni dettaglio, e quindi per questo motivo la ringraziamo. Nella puntata, nell'episodio della nostra storia seriale che racconteremo oggi, sentirete proprio parlare di questo, parlare di come lei cresce con delle agevolazioni per il fatto di essere orfana, ma con la sensazione di una colpa profondissima, proprio perché è rimasta senza suo padre. Ma non è rimasta senza suo padre perché il padre è mancato per motivi naturali, per una malattia, ma proprio perché è stato ucciso dalla mafia. Suo padre, lo ricordiamo per chi magari è la prima volta che ascoltasse questa storia, si chiamava Niccolò Azzotti ed era un uomo, era un falegname che lottava per i diritti sindacali dei contadini che non avevano la proprietà delle loro terre. Siamo nella Sicilia del primo dopoguerra, siamo nel 1946, per questo viene ucciso. Antonina ha solo 4 anni e da lì in avanti cresce senza il padre. Dolore era un dolore coltivato soltanto dentro le pareti domestiche, era un ricordo coltivato dai familiari, quindi un ricordo privato, chiuso, muto, era un ricordo solitario, e per questo noi non l'abbiamo elaborato, non abbiamo avuto la possibilità di condividere. Il dolore si supera quando c'è qualcuno accanto a te che ti batte una mano sulla spalla e ti dice e ti porta oltre. Tutto questo noi non l'abbiamo avuto, e quindi noi non l'abbiamo elaborato come avremmo dovuto, e le ferite sono rimaste sempre sanguinanti per noi. E la condivisione per me è arrivata a una data ben precisa, maggio 1992, strage, certo, di Capaci. Ecco perché questa data per me, certo, è così importante, perché ha dato una svolta alla mia vita, alla mia sofferenza, al mio dolore, ed è da lì che comincia il percorso della memoria, perché certo la memoria, ecco, per me fare memoria significa proprio questo, far conoscere a chi non sa, perché la storia mia non è soltanto mia, ma appartiene alla storia della Sicilia, appartiene alla storia dell'Italia. I ricordi più vivi e cocenti dell'infanzia e dell'adolescenza sono quelli della mia condizione di orfana. Per me significava essere triste e sola, significava essere l'unica bambina in classe vestita di nero. Avevo il libro gratis del patronato scolastico. Imparai presto questo nome, senza sapere cosa fosse. Sapevo però che mi dava, senza pagare, qualcosa che gli altri compravano con i soldi. Mi dava anche la refezione, a me come ad altri figli di famiglie numerose o povere. Distinto e per orgoglio inizialmente rifiutai, ma quando mi resi conto che altri bambini facevano a gara per avere il rettangolino di marmellata di mela cotogna o il formaggino, mi accodai a loro, sentendomi meno diversa. A fine giornata scolastica potevamo raggiungere il collegio di Maria, dove ci veniva servita una porzione di minestra. Per avere i ditali in brodaglia dovevamo portare da casa contenitore e cucchiaino. Un giorno io, appunto, che avevo con me questa tazza di papà, la tenevo molto stretta, al ritorno dalla refezione caddi e si ruppe la tazza. Per me il dolore fu enorme, grandissimo. Inizi di a terra rannicchiata, non avevo il coraggio di alzarmi, nessuno si spiegava perché, mi dicevano su, vatti in casa, su, ma io non potevo alzarmi, ma come potevo presentarmi a casa dicendo alla mamma che avevo rotto la tazza di papà? E quindi sono rimasta là, poi è venuta la mamma a prendermi. Mentre dovevo impegnarmi a ingoiare tante umiliazioni, una sorta di orgogliosa volontà di rivalsa mi trovava ostinatamente impegnata nella ricerca di una normalità, anzi di qualcosa che fosse di più. Allo studio dedicavo tutte le mie energie, era una gara con me stessa e aveva anche lo scopo di gratificare la mamma. Volevo sempre primeggiare sulle compagne di scuola e ricevere le lodi della mia insegnante. Mi inorgogliva tanto essere chiamata a dimostrare la capacità professionale della mia maestra durante le rituali visite del direttore didattico. Anche nei giochi volevo essere la più brava e di solito ci riuscivo. A passetto, a corda, a bisoli, il gioco con le cinque pietre, a macciareddu, a palla, nessuno mi superava in destrezza e in abilità. Arrivavo al punto di allenarmi da sola per non perdere i miei primati. Nei giochi mi imponevo sempre il ruolo di leader che gli altri non avevano difficoltà a riconoscermi. Mi sorprendeva perciò e mi feriva ancora di più la cattiveria della quale talvolta diventavo oggetto, nelle maligne allusioni della mia condizione di orfana. Soltanto ciò riusciva a sconfiggermi, a prostrarmi nell'umiliazione più cocente. Ma dopo aver subito fino in fondo l'offesa, cercavo sempre una possibile rivalsa. La mia grinta, ho capito con il tempo, aveva questa origine e questo significato. Io ho tanto in meno di voi, ma c'è anche qualcosa che ho in più rispetto a voi. E questo qualcosa è la mia volontà, la mia determinazione, il mio costante impegno. Il tutto rappresentava allora e ha rappresentato poi la mia preziosa posta nella scommessa della vita. Già allora cominciai a coltivare un progetto molto ambizioso per la mia condizione. Era diventare maestra. Insomma, c'è molto del passato, c'è tantissimo, quasi tutto del presente e c'è già un briciolo di futuro nella storia che ci racconta oggi, che ci ha raccontato oggi Antonina Zotti, grazie a Mauro Pescio che la intervista e che raccoglie la sua storia e ce la racconta. Grazie a lui, grazie a lei ovviamente, grazie a voi che ascoltate e che continuate a mandarci le vostre storie. Grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli e a Paolo Corleoni. Ora ascoltiamo il GR e poi noi torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!